Buonasera, questo era un regalo di Marco Paolini ai mercanti di liquori a questa iniziativa che oggi avrà il suo momento conclusivo con questo concerto. L'Istituto Ernesto De Martino ringrazia tutti voi, tutti gli artisti che sono venuti durante la scena, si sono esibiti la banda degli Ottoni a Scoppio e il gruppo Operai e Zesi di Pomigliano d'Arco, e ci piace dire uno da Milano e uno da Napoli. Sentirete ancora parlare di loro. Vi ringrazio, vi ricordo che l'Istituto Ernesto De Martino è un'associazione che vive anche grazie a voi, al vostro contributo, per cui per favore lasciate un contributo lì all'ingresso oppure comprate qualcosa, insomma iscrivetevi all'Istituto Ernesto De Martino. Niente, vi devo semplicemente davvero, pensate che abbia delle braccia grandissime come una piovra, riesca ad abbracciarvi tutti e tutti insieme in qualche modo salutare il nostro Ivan. Grazie, adesso i suonatori Terra Terra.